Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri. Ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta, e salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. Caro Oscar, caro Alessandro, è finita così la giornata di ieri. Ma non è finita questa partita, perché certo, come sai la lunga campagna è appena cominciata. Dopo 9 mesi ce ne sono chissà quanti in arrivo, perché è tutto per le prossime elezioni politiche. Sì, infatti è bellissima, non avete questo splendore di sensazione, signore? Abbiamo finito una campagna elettorale e stiamo per iniziare un'altra. Never ending subito, pause, subito. Come diceva ieri sera un mio amico, l'Italia è questo: voi finite un'elezione ma avete già, esatto, in procinto, state già parlando della prossima. Forse vi risparmiamo la pausa di Natale, ma non è detto. No, non è detto, non mi è pare detto. Di no, visto quello detto che deve succedere tra il nuovo governo, se il PD regge, non regge, se bisogna innestare qualcuno alla maggioranza, chi, non credo, la legge elettorale, quando si va a votare, quindi figurati, passeremo un Natale in trincea. Eh sì, caro Oscar, oggi è interessante e sarà interessante capire, cercheremo di spiegare, anche se gli scenari sono mille, molteplici, cosa potrà succedere. Intanto vogliamo iniziare come sempre dai santi? Ci sono dei santi che, come sempre, bisogna essere un po' sinceri, bisogna cercare dei santi che dicano qualche cosa rispetto al significato della giornata. Quindi c'è una santa consolata che io dedico ad Agnese. Esatto, più ad Agnese, di Genova. Poi c'è un San Lucido, e questo San Lucido io spero che ispiri molti. Mattarella, perché questo lo dedichiamo a Mattarella. E poi c'è un San Basso, qui si può scegliere a Iosa. Più basso è oggi Renzi. Direi di sì, ma non voglio. Io devo dire che mi è piaciuto il discorso, ma c'è una cosa che comunque è mancata, perché lui è molto bravo nei discorsi quando le cose vanno male, tipo quello delle primarie. L'hanno notato tutti che è un discorso come quando perse le primarie. Non c'è mai l'ammissione di un errore, però. E questo è un po' singolare, Cioè è comunque un grande passo avanti rispetto ai politici, esatto, prendersi le responsabilità e andarsene. Nel momento della sconfitta, certo, presentarsi e dire ho questo perso io, la poltrona che salta questo è la mia, è un passo rispetto ai politici a cui eravamo abituati, però, è una roba veramente andando gigantesca. Al nocciolo, il punto di fondo, cioè incardinare tutto sul plebiscito personale. Ma questo forse lo farà come analisi. Non lo so, incardinare tutto sul plebiscito personale, creando per questo una situazione che, come si vede, è una situazione, vedremo sui mercati oggi, vedremo cosa succede ai MPS, a Unicredit, alle banche, all'economia, tutto quello che si vuole. Lo so che chi ha vinto o no dice queste sono cose secondarie, caro Giannino, però per il paese sono cose abbastanza reali. Ecco, tutto per questa scommessa personale, secondo me è un azzardo troppo elevato per uno statista di grande rilievo. Vediamo se con gli anni Renzi impara. Questo è il mio giudizio, devo dirti la verità. E va bene, e questo aspetta, lo, perché bisogna ricordare, tra le altre cose, oggi è il compleanno di Crozza, è il compleanno di Maria De Filippi, è il compleanno di Stefano Bollani, però è anche il compleanno di Alessandro Milan. No, ma festeggio e mi dispiace con Crozza! Mi dispiace, non potevo evitare. Grazie, caro Alessandro, mi mandate un abbraccio a nome di tutti i nostri ascoltatori. Grazie ovviamente, grazie per questi 36 anni che ho. Sui 36 anni non hai detto niente. No, io non ho detto niente, perché, scusami, sarebbero 46. Ma non è vero, non è vero. Adesso, siccome ti sei montato la testa con la padula, ti aumenti anche gli anni. Questo è il punto. La padula. Allora, comunque, intanto invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24, perché bisogna capire alcune cose. Prima, per esempio, caro Oscar, Padoan, questa è notizia di poco fa, Padoan, che oggi io in rassegna stampa ho detto andrà a Bruxelles ai ministri delle finanze, non va a Bruxelles, ha annullato tutto. Non può andare con il governo dimissionario. Spiegaci perché non va. Il governo è dimissionario, però potrebbe andare lì a rassicurare, appunto. Potrebbe andare lì, ma innanzitutto non sappiamo quale sarà la valutazione del Presidente della Repubblica. Potrebbe rinviare alla Camera Renzi, potrebbe accettare le dimissioni e aprire delle consultazioni. È una questione ovvia di rispetto istituzionale, quella per cui non vada. Non è un incidente politico, non va sovraccaricato dei risultati. È ovvio che l'Unione Europea, ricordo a tutti che l'Unione Europea, la Commissione Europea in questo caso, ha aspettato il dopo referendum per dire davvero come la pensa sulla legge di bilancio. E adesso vediamo, perché dovrà giudicare se regge questa maggioranza oppure no. Cosa succede nel PD adesso? Al fronte del no, vuole cambiare tutto oppure no? Va a pezzi la legge di bilancio e così via. Ci saranno una serie di conseguenze, tutte da valutare. È il Partito Democratico dove si consumano quelle feroci. Bersani ha detto: altro che mucca, c'è un toro nel corridoio. E invece D'Alema, lo vogliamo risentire? Faccio risentire D'Alema come rideva. Tu hai presente D'Alema, no? Sempre austero, sempre un po' questo tono incazzoso. Appena si avvicina un giornalista, ma diciamo così. Ieri D'Alema ha vinto pure il derby, ma soprattutto senti D'Alema. Beh, no, ci ha fatto contenti. Io oggi veramente devo dire, per me è stata una giornata bellissima, diciamo. Cioè, ma senti, pure vinto il derby, insomma. Pure alla fine lo legge, pure vinto il derby. Oscar, era una giornata, cioè D'Alema, non so, non era così felice da 30 anni. Sono vecchio abbastanza per sapere che la vita interna dei partiti è fatta soprattutto di lotte interne. Poi vengono gli avversari fuori, però prima la lotta interna. Il PD in questo è veramente l'incarnazione realizzata di questa dannazione della storia. Incredibile. Comunque noi abbiamo commentatori molto autorevoli oggi che si alterneranno. Il primo è Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno direttore, eccoci qua. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Allora, De Bortoli, qui ci stiamo chiedendo che succederà, non vorremmo proiettarci troppo in là. Intanto dovremmo chiederci cosa è successo. Le piace il Renzi che Oscar qui diceva comunque non ha fatto ammissioni di colpa, però si è presentato, ha detto: qui ho perso, me ne vado, ciao. Le piace questo politico nuova maniera? Non mi piace che abbia detto ho perso, cioè l'ammissione di colpa e di responsabilità è stata netta, e quindi da questo punto di vista bisogna dargli atto che si assume la colpa, la responsabilità di tutto quello che è successo. Io mi auguro naturalmente che sia una dimostrazione di uno statista che, pur avendo subito una sconfitta cocente, si rende conto che è ancora oggi il Presidente del Consiglio, secondo me lo sarà ancora nei prossimi giorni, credo che probabilmente Mattarella gli ridarà l'incarico, perché comunque c'è un referendum sulle regole, non ha avuto la sfiducia alla maggioranza, è soltanto la maggioranza del PD. E io credo che avrebbe tutto da guadagnare Renzi anche nel suo profilo politico, anche per quello che sarà il secondo tempo della sua carriera politica, di dimostrare senso di responsabilità, di abbassare un po' le penne, di occuparsi finalmente dei problemi del Paese, magari nel mandato che avrà, anche perché ci sono molte cose importanti da fare, c'è una legge di bilancio da completare, magari con minori spese elettorali, intanto non serve più e con un senso di responsabilità più elevato. Cioè, ma quindi secondo lei accetterebbe secondo lei un reincarico? Ma io credo che dovrebbe riaccettarlo, perché non si può dire io ho perso, prendo, me ne vado, tocca al fronte del no. Il fronte del no non è una coalizione politica, il fronte del no si è coagulato casualmente, se vogliamo, durante la campagna referendaria, ma non è una proposta politica, non c'è un'alternativa di governo del fronte del no. E quindi, insomma, non può dire siete voi che dovete fare una proposta. No, c'è un governo in carica che ha ancora la fiducia del Parlamento, anche con un Senato rane nella conformazione costituzionale. Insomma, è importante oggi riuscire ad andare avanti e affrontare i problemi più urgenti del Paese, che abbiamo trascurato, diciamo la verità, per 6 mesi. Torniamo alla realtà, e naturalmente Renzi io credo che debba sentire la responsabilità di non lasciare il volante improvvisamente, ma di occuparsi anche nell'ordinaria amministrazione dei problemi più urgenti del Paese. Beh, insomma, interessante. De Bortoli, secondo lei questo referendum mette di fronte a un muro, cioè accelera la possibilità che le opposizioni varie e diverse unite nel fronte del no tra di loro trovino un qualche cemento, una qualche convergenza? Non lo so, no all'euro, no all'Unione Europea, oppure no? Io ci credo veramente poco, insomma, sono talmente eterogenei, sfidanciati, insomma, ecco, potrebbero, anche loro dovrebbero non sentirsi vincitori, perché qui c'è soltanto un conflitto che è Renzi, c'è un fronte del no che vince, e c'è la vittoria di un paese che non ha accettato ricatti, che non ha subito condizionamenti e che ha votato liberamente, che ha espresso anche una voglia di contatto verso il voto, quella possibilità di contare realmente che l'Italicum un po' non garantisce. Quindi immagino che il fronte del no dovrebbe, cioè sono solo responsabili, spero che lo siano, anche se ho qualche dubbio vista la composizione, si diano da fare perché ci possa essere una legge elettorale accettabile che garantisca la rappresentatività del Parlamento, ma anche una certa stabilità di governo. È il momento, insomma, adesso è finita questa lunga, estenuante campagna referendaria che Renzi ha così personalizzato, dividendo il paese, cosa peraltro di grave responsabilità. Bisogna che facciano un passo avanti nei confronti degli altri, non ci siano veleni, ci si tenti di ricucire al massimo quei legami che devono consentire al paese di mostrarsi meno fragili di quanto non appaia sui mercati in una giornata particolare come oggi. Beh, interessante questa lettura. Intanto la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli. È molto interessante l'idea di dire dovrebbe accettare un reincarico e magari, come dire, cambiare toni, cambiare registro, abbassare le penne, ha usato questa espressione. Viva De Bortoli, posso dire. Il mio commento in tre paroline. Viva De Bortoli. Facciamo così, andiamo in pubblicità perché abbiamo gli ascoltatori, ma abbiamo anche Antonio Padellaro, tra poco avremo Maurizio Firma del Fatto Quotidiano, Maurizio Molinari, direttore della Stampa, insomma chiederemo a loro e anche a voi, i nostri ascoltatori, che succederà adesso. Effettivamente c'è uno scenario con tante possibilità. E poi soprattutto io devo dire agli ascoltatori, qui iniziano ad arrivare le vostre prime bottiglie di champagne per Alessandro Milan, grazie. È un po' presto la mattina, però va bene. Grazie, le tiene da parte Oscar, ma grazie lo stesso, a tra poco. State ascoltando un programma offerto da BMW InnoVision, le risposte prima delle domande. Scoprile su innovision.bmw.it. 24 mattino. Attenti a noi due. 8:38 minuti, caro Oscar. Sentiamo un po' il polso dei nostri ascoltatori. Non tutti, ovviamente, no, ma insomma, alcuni sentiamo. Ci hanno chiamato. Piero da Bologna ci chiama. Che dice? Siate oggi sintetici. Pronto. Tanto bisogna dire che ne pensate. Piero, buongiorno. Pronto, mi sentite? Benissimo, dica Piero. Buongiorno, complimenti. Una domanda tecnica a tutti e due. Tra le varie possibilità che stavo pensando potessero accadere da domani, insomma da oggi, io mi chiedevo questo: Mattarella potrà certamente dire a Renzi, io vabbè accetto le tue dimissioni, ma tu vai in Parlamento e chiedi la fiducia. Se per assurdo dovessero dargliela, Renzi potrebbe dire: guarda Mattarella, anche se io ho la fiducia, non mi importa, mi voglio dimettere. Si può dimettere. Non sono un esperto. Mattarella a quel punto potrebbe dire: guarda Renzi, ti vogliamo tutti bene, riprenditi la fiducia e fai un governo, oppure dovrebbe comunque desistere e accettare le dimissioni di Renzi? No, guardi, tecnicamente la cosa sta così: siccome è un evento extraparlamentare che ha determinato la decisione del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, per prassi, è molto probabile, non è sicuro, altri avrebbero detto di no, però per prassi dirà vai in Parlamento. Se il Presidente del Consiglio in Parlamento dice io comunque me ne vado, e il Quirinale non può imporgli di restare Premier, ma la formalizzazione del dibattito parlamentare dà elementi al Presidente della Repubblica per la successiva fase, cioè valutare che tipo di incarico dare a chi, cioè se regge la maggioranza per fare la legge di bilancio, eventualmente la legge elettorale, o deve pensare a qualcosa di diverso. Le cose più o meno tecnicamente stanno così. Poi dopodiché non può obbligare nessuno a rimanere contro il proprio volere, però Mattarella potrebbe dire no, Renzi dai, riprovaci. Vediamo se è responsabile, fa in maniera tale che il tuo partito continui a assicurare la maggioranza, per esempio, ecco, potrebbe dire questo. Bisogna vedere cosa dice la minoranza oggi, i vari Bersani e così via, perché la cosa decisiva per la tenuta del PD in Parlamento è quella. È chiaro. No, prima di Sergio chiediamolo, perché poi ci deve lasciare tra qualche minuto, ad Antonio Padellaro, firma e ex direttore del Fatto Quotidiano, quel giornale Fatto Quotidiano che insomma non ha fatto mistero di fare una campagna per il no molto molto dura, nel senso a dire bisogna assolutamente votare no. E infatti oggi i toni sono trionfalistici, c'è un no gigante in prima pagina del Fatto Quotidiano. Caro Padellaro, buongiorno intanto. Buongiorno, succederà, buongiorno, succederà questo come scenario? Prima Ferruccio De Bortoli ci ha detto che Renzi dovrebbe accettare il reincarico, magari abbassare le penne, ha usato questa espressione, però andare avanti. Che dice? Lo trovo difficile, onestamente, che Renzi, dopo aver detto quello che ha detto questa notte, io sono diverso, io non sono attaccato alla poltrona, eccetera, eccetera, sia protagonista di un ennesimo balletto, no? Diciamo di questo genere. Cioè, ha ragione Giannino nel dire che certamente la procedura sarà parlamentare, perché non può non andare in Parlamento, ma io credo che in Parlamento lui ribadirà la sua intenzione di mollare. Per quale motivo? Intanto ieri sera lui ha detto una cosa importante, ha detto che il 40% errotti di voti per il sì è un numero impressionante, 13 milioni e mezzo di voti. Attenzione che qui sì, non è che lui se li è intestati, perché non è il momento di intestarsi una sconfitta, però sono voti, bisogna dire la verità, che comunque lui può rivendicare come voti dati, evidente, no? Alla sua riforma, e quindi anche a lui, alla sua persona. Quello è un patrimonio che Renzi, guardate che è interessante, è quasi la stessa percentuale di voti che lui prese alle europee, no? Sì. Siamo al 40%, quel 40% lui lo terrà, no? Adesso lo mette in cassaforte, se lo giocherà quando sarà il momento di presentarsi davanti al Partito Democratico, penso martedì, se non sbaglio. Ci sarà domani. Esatto. Lì vediamo come se la gioca, se anche lì si dimette o se no. Comunque è evidente che in questa fase, se lui resterà, penso, come leader del Partito Democratico, sarà un elemento fondamentale per stabilire che tipo di governo si farà da qui a... Ma questo è interessante, perché Padellaro ci dice quello che lo stesso Renzi, secondo alcuni scenari, aveva detto prima del voto, cioè: ma se in fondo perdo con un 40%, potrei, visto che è stata visto questo referendum come pro o contro Renzi, potrei considerare quel 40% una base per cui costruire la mia carriera politica. Perché quel 60% invece è fatto di persone che tra di loro rappresentano tronconi non convergenti. Però, dove... Oscar, in quel 40% ci sono molte persone che hanno votato non pro o contro Renzi, ma sulla Costituzione. Stiamo proprio parlando del ragionamento che fa Renzi. Certo. E il ragionamento che fa Renzi, la questione è chiaro che è stata di giocarsi alle elezioni. Ripeto, qualunque sia la prossima legge elettorale, anche col proporzionale, se c'è uno che becca il 40%, è difficile poi prescindere dal fatto che bisogna fare il governo con lui. Scusate, volevo dire una cosa. Detto che comunque... l'avete detto in tutte le salse, l'abbiamo letto in tutti i modi, che è una pesantissima sconfitta per lui questa. Attenzione che adesso si avvia, c'è una fase certamente di incertezza, e Renzi, ma legittimamente, si può sedere, come dire, sulla riva del fiume e dire: adesso vediamo cosa combinate, no? Va bene, è una soddisfazione relativa. Quello che è importante capire è se, non essendoci molte possibilità che Renzi torni a Palazzo Chigi, cosa farà Mattarella. Allora, tra le ipotesi, io mi sentirei, non so voi cosa ne pensate, di escludere i governi cosiddetti tecnici. Anch'io, perché non è possibile per le forze politiche votarle in Parlamento. Gli italiani non ecco, ne possono. Ecco, mentre il cosiddetto governo istituzionale... con la responsabilità diretta, diciamo, del Presidente della Repubblica in una fase difficile di questo genere. C'è un governo grasso. Io credo che grasso certamente potrebbe essere un'indicazione interessante. Sai che oggi escono i nomi ancora sempre: Prodi, Giuliano Amato. Esiste una fase istituzionale dell'Italia in cui questi nomi non rispondono? Parliamo di noi giornalisti, però. Sono nomi dei giornali, i quali devono evidentemente riempire le pagine. No, non credo, questi sono tutti personaggi del passato, che non possono funzionare. Occorre qualcosa, ecco, in questo caso la figura ovviamente del Presidente della Repubblica è fondamentale, e il Presidente della Repubblica in un momento difficile deve assumere in sé anche la responsabilità, non solo istituzionale, ma politica, certo, di quello che succederà nei prossimi mesi. E quindi sarà lui che, no, dirà... Perché in parole povere ci vorrebbe una figura che, sia pur innestata nell'arco di una maggioranza, parli e dia garanzie al fronte che ha vinto nel no a questa riforma costituzionale in vista della legge elettorale dopo che ha parlato la Consulta. Ecco. No? Questo sì. Posso aggiungere, volevo aggiungere una cosa. Quello che colpisce nel voto di stanotte è la serie di errori tattici e strategici commessi da Renzi in questa campagna elettorale. Cioè, Renzi poi adesso resta, lo diciamo, resta certamente un personaggio centrale della politica italiana, però ha sbagliato tutto. Tutto quello che poteva sbagliare lo ha sbagliato. Lo ha detto. Cioè, sì, non lo ha detto così, ma se l'hai giocata e l'ha persa questa partita. Ma l'ha persa proprio perché l'ha voluta perdere. E ricordiamo anche l'ultima cosa, che se non fosse stato per Giorgio Napolitano, che gli ha quasi imposto di promuovere questa riforma costituzionale di cui lui non aveva mai parlato prima, oggi forse Renzi non sarebbe in questa situazione. Diciamo che lui ha dovuto, per forza, accettando l'incarico, sposare anche questa idea di questa riforma pasticciata, e che lo ha perduto, almeno in questo momento. Certo. Noi allora intanto ringraziamo Antonio Padellaro. C'è Sergio da Vicenza che è lì in attesa da un po' e lo ringraziamo. Sergio è ancora con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Buongiorno, rispetto all'ottimo scenario disegnato da De Bortoli, sì, come sempre molto efficace, c'è la disgraziata possibilità dell'altra faccia della medaglia, cioè a dire, tra l'incarico a uno, chiamiamolo nuovo, tipo Grasso, la nuova legge elettorale che dovrà essere fatta, e se tutto va bene arriveremo a aprile-maggio, poi la campagna elettorale, insomma, tra una storia e l'altra avremo un nuovo governo, un nuovo Parlamento tra un anno esatto. Possiamo permetterci di sprecare un anno? Dico sprecare tra virgolette. Secondo me no. Va bene, e secondo lei no, Sergio. Ci sono stati paesi dove, si ricorda sempre il caso del Belgio, della Spagna, dove senza il governo non sono arrivate le cavallette, però Oscar, effettivamente noi siamo un po' campioni di... Sergio, che vuoi che ti dica? Tutto questo però dovrebbe far riflettere chi ha passato 1000 giorni, almeno 500 di quei 1000 giorni, a dire a tutto il mondo che l'Italia era definitivamente entrata in una fase in cui era protagonista mondiale per la sua stabilità, la sua forza, il consenso di cui godeva. Non era Alessandro Milano e Oscar Giannino a dirlo, eh? Quindi questi errori politici poi si rivelano in un boomerang clamoroso, e sì, l'effetto sarà una nuova instabilità, però perché qualcuno ha sbagliato tragicamente i toni e non è disposto ancora ad ammetterlo. Io intanto devo annunciare che ho perso un caffè di scommesso con Stefania Cavallaro di Italia 1. Avevo scommesso con lei che avrebbe vinto, secondo me alla fine avrebbe vinto il sì al 60%, ho azzeccato il 60%. Hai azzeccato il 60%, ma non coloro a cui andava. Mezzo caffè potrei giocarmela così. Te do l'attenuante, perché per te l'idea del caffè con la Cavallaro prevaleva sul merito. È così. Sei un marpione. E tu mi dirai, tu sei un marpione. Non l'ho detto. Se è all'ascolto, caffè pagato, le scommesse si pagano a Stefania Cavallaro. Comunque, possiamo dirla tutte le ultime settimane, a dire sarà il voto estero decisivo. Ma infatti, e le matite? Le matite cancellabili. Però posso dirti, Piero Pelù. Ma tu nella vita hai mai fatto l'esperienza al seggio? Non l'ho fatto una volta. Primo, mi dovetti impegnare perché le bianche fossero immediatamente conteggiate e non messe da parte. Io dissi, scusate, perché le volete mettere da carte senza conteggiarle le bianche? Sulla matita copiativa, la mia esperienza limitatissima è che se sono nuove o ancora in bell'arnese, cioè non hanno fatto le lezioni dalla costituente a oggi, moncherini, perché guarda che ti arrivano dei moncherini, effettivamente sono indelebili. Se sono proprio nuove, mortali, se sono vecchissime, iperconsumate e così via, l'indelebilità effettivamente la, però cioè, Oscar, è anche vero quello che vuoi, ogni cittadino ha diritto ad assistere alle, okay. Intanto io ieri quando si aprono le schede c'è un presidente che vede, alcuni nostri ascoltatori avendo sentito hanno fatto una prova, hanno contestato, hanno, sono andati ai carabinieri e hanno votato con la Biro, ci hanno scritto per questo, qui a me non resta altro che dire. Però detto questo, meno male che non ci sono state, ecco, meno male che hanno votato 1.200.000 persone. Ci sono gli articoli della stampa in cui in queste buste sono arrivati assegni, cose, le cose più varie e diverse, grazie al cielo non sono decisivi per il margine della vittoria, così polemiche zero. Va bene, intanto salutiamo anche in questa carrellata gli opinionisti davvero d'eccezione oggi, il direttore della stampa Maurizio Molinari. Buongiorno direttore, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. Allora Molinari, gli scenari, Ferruccio De Bortoli ci ha detto che un reincarico dovrebbe essere quello che Renzi deve accettare, Padellaro dice che il discorso di ieri invece toglie un po' quest'idea di dire no, sono un politico diverso io. Lei direttore cosa dice? Che succederà adesso? Ma io dico che naturalmente la scelta spetta al capo dello Stato. Il capo dello Stato partirà dal dato del referendum, che se naturalmente sono le dimissioni di Renzi, d'altro canto il PD che si riconosce in Renzi raccogliendo il 40% dei voti è di fatto la forza politica di maggioranza relativa nel nostro paese, sulla base dell'Italicum otterrebbe anche la maggioranza dei seggi per poter governare. Questo significa che se Renzi dovesse rifiutare il reincarico, l'indicazione sarebbe per un leader del Partito Democratico. Da questo punto si pone un problema politico, perché il PD per indicare un leader dovrebbe trovare un accordo fra Renzi e la minoranza. Sì. È interessante però, perché proprio voi della stampa, nel commento di Fabio Martini, oggi raccontate che Renzi in realtà ha fatto anche questo discorso un po' per rilanciarsi, no? Per autoproporsi magari in una corsa alle elezioni, no? Visto che sempre gli è stato detto non sei mai stato eletto. Lo scenario potrebbe essere quello di un premier che fa mezzo passo indietro, si mette alla finestra e di fronte a un governo debole punta al riscatto elettorale quando si andrà a votare nel 2018, perché sappiamo che Mattarella non vuole sciogliere prima le Camere. Detto questo, però, bisogna essere molto onesti con chi ci ascolta, e quando il 70% degli italiani va a votare con 20 punti di scarto punisce il governo, è un'espressione di protesta massiccia che non è riconducibile solamente a singole forze politiche o a dinamiche politiche. C'è un profondo scontento nel nostro paese. Molinari, faccio a lei la stessa domanda che ho fatto a De Bortoli. Ritiene, dopo questa vittoria del no, che però è intestata a tronconi politici divergenti tra loro, non certo una coalizione di governo a oggi, però detto questo, potrebbe essere un incentivo a convergere su due paroline su cui Salvini e 5 Stelle in realtà non la pensano poi in maniera così diversa, cioè no all'euro e no all'Europa, secondo lei? Io credo che la necessità sia convergere su un nuovo sistema di welfare. Il punto è che la protesta nasce dal disagio del ceto medio, perché si sente impoverito, sente di avere meno capacità di acquisto, meno speranze, meno possibilità di far fronte ai propri bisogni, di essere stipendiato, di avere salari che non consentono di arrivare alla fine non del mese ma della settimana. Ciò che più serve è risollevare il ceto medio, restituire denaro nelle tasche delle famiglie. Questa è la vera emergenza nazionale. Beh, questa lettura, secondo me, nel ringraziare il direttore della stampa, che è la lettura della chiave Molinari, della protesta. Accidenti, ma è una lettura, secondo me, assolutamente vera. Cioè, volente o nolente, purtroppo ha ragione, la gente ha votato con la pancia, nel senso che dice sono in difficoltà, non ho lavoro, non ho. Ma perché dire quindi che votare con il portafoglio e votare con la pancia? Non nel senso negativo, nel senso di mi guardo. La pancia era l'amore per il grande leader, perdona. E io almeno la penso un po' così, cioè la gente ha detto vedo la mia condizione e voto di conseguenza. Vediamo cosa succede alle banche e vediamo cosa succede ai capitali esteri, se c'è una fuga di capitali o non, gente che non investe, perché questo è il grande rischio. E anche questa è stata una irresponsabilità totale buttarla su questo da parte del Presidente del Consiglio. Io la penso così. Credo che nei prossimi giorni parleremo abbastanza di politica. Ho come questa netta sensazione. Vabbè, e sentiremo anche il polso degli italiani. Dai, a domani, grazie a tutti. Buon compleanno!